Buonasera cari ascoltatori, serata insieme a voi per Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sul Radio Alma 101.9. Spero ci sia qualcuno in studio. Dunque, se le mie fonti sono giuste, dovrebbe esserci Enrico Maiofer, corrispondente di Radio SBS Australia. Buonasera Enrico, a tutti. Ci sei? Sì, ci sono, buonasera. Buonasera Enrico, e poi come sempre Maurizio Mollinari, collaboratore di Giro di Boa. Maurizio, ci sei? Ciao Alessandra. Buonasera anche a te e ovviamente come sempre in regia Roberto Giara. Buonasera a tutti. Dunque, questa sera Giro di Boa si occuperà un'altra volta delle elezioni europee, dico un'altra volta in quanto Giro di Boa si è già occupato delle elezioni europee la settimana scorsa con un'intervista all'onorevole Gianni Pittella del PD e all'onorevole Musumeci della destra. Come dicevo prima, elezioni europee, come ben sapete cari amici radioascoltatori, tra oggi 4 giugno e domenica 7 giugno ci saranno le elezioni europee in tutti i 27 stati dell'Unione Europea, cioè significa che 375 milioni di elettori sono chiamati ad esprimere le loro preferenze per eleggere il nuovo Parlamento Europeo a sistema proporzionale. I rappresentanti che verranno eletti saranno 736 e siederanno appunto nel Parlamento Europeo. Ora questa sera ne parleremo con un candidato che è già in linea e lo presento subito, è il candidato Nicolò Rinaldi, capolista nella terza circoscrizione Italia Centrale per la lista Di Pietro Italia dei Valori. Buonasera. Dunque io le volevo fare subito una prima domanda. Come si differenzia la sua idea di Europa e quindi l'idea di Europa che promuoverà una volta che si sarà eletto con il suo gruppo di cui farà parte al Parlamento Europeo rispetto alle altre idee di Europa? Beh, in primo luogo noi come Italia dei Valori faremo parte del gruppo dei democratici e dei liberali per l'Europa, che è il terzo gruppo, la terza famiglia storica del Parlamento Europeo accanto a quella dei conservatori e quella dei socialisti. Ed è la famiglia che è da sempre più impegnata e molto unita su questo per favorire il processo di integrazione europea. Siamo stati l'unico gruppo che ha votato a favore della Costituzione, ha votato a favore del Trattato di Amsterdam precedentemente e adesso siamo quello che sicuramente è più coeso anche sulla difesa del Trattato di Lisbona, mentre purtroppo vedo delle crepe sia nel gruppo popolare che nel gruppo socialista su alcuni di questi passaggi fondamentali del processo di integrazione. Questa sicuramente è la prima cosa per portare il contributo italiano nel dibattito europeo, che attualmente è molto poco come contributo italiano, perché di fatto noi su 27 paesi occupiamo al Parlamento Europeo la 27esima posizione, cioè siamo all'ultimo posto per tasso di presenza ai lavori parlamentari. Questo è un piccolo scandalo di cui in Italia non si parla mai, ma certamente è una delle tante vergogne, ecco, che purtroppo ci portiamo dietro in Europa e che minano la credibilità dell'Italia nelle istituzioni dell'Unione Europea. La lista dell'Italia dei Valori, devo dire, è veramente molto diversa da tutte le altre, perché è una lista di persone che nella quasi esclusività, quasi completezza, sono persone che si affacciano alla politica, all'esperienza diretta in politica per la prima volta. Io sono capolista, dopo Antonio Di Pietro, quindi sono diciamo il capolista effettivo per molti aspetti e ho questo onere, questa responsabilità, eppure sono stato, come dire, invitato ad avere questa responsabilità, non essendo iscritta all'Italia dei Valori, mi presento come indipendente, come molti altri compagni di cordata in questa lista. Non sono una persona che appare tutti i giorni sui teleschermi, non ho pacchetti di tessere o pacchetti di voto, che sono spesso i requisiti essenziali per essere candidati in posizioni elegibili al Parlamento Europeo, dove bisogna scrivere ancora il nome Rinaldi, in questo caso sulla scheda. E come anche i miei compagni di lista, sono candidato in virtù, come dire, di un'esperienza personale diretta in Europa, perché io da molti anni lavoro nelle istituzioni europee, vivo tra l'Italia e Bruxelles, dal 1991 sono uno dei consiglieri politici al Parlamento europeo, dal 2000 sono uno dei segretari generali aggiunti, ho tre figli tutti nati in Italia con la famiglia che ha fatto su e giù tra Italia e Bruxelles e che quindi, come dire, conosco bene la visione del nostro paese che si può avere dall'estero. Lei diceva che gli italiani sono hanno un primato non molto positivo al Parlamento europeo, e si riferiva al tasso di assenteismo. Se infatti guardiamo le cifre che sono pubblicate sul sito del Parlamento, vediamo che gli onorevoli italiani non sono molto presenti. Secondo lei però com'è possibile dividersi fra il collegio elettorale in Italia da un lato ed i lavori delle commissioni a Bruxelles e dalle sessioni plenarie a Strasburgo dall'altra? Com'è possibile coincidere le due cose una volta eletti? Ma io credo che ci vogliano tre cose chiare per risolvere questo problema. Il primo è che bisogna intendere il mandato europeo su due fronti. La presenza al Parlamento, all'istituzione, è una cosa cruciale, e d'altro canto dichiara che bisogna essere presenti sul territorio. Ora, il Parlamento europeo è una istituzione molto civile, dove ci sono delle regole, bisogna rispettarle, nessuno ti pugnala alla schiena, ma detto questo, come tutto in Europa, è un'istituzione dove nessuno ti regala niente, dove bisogna essere presenti, bisogna negoziare, bisogna avere capacità di persuasione, naturalmente bisogna avere una più che buona, direi ottima conoscenza delle lingue, soprattutto dell'inglese, perché altrimenti uno è tagliato fuori da tutto quello che non è la discussione prettamente formale, ufficiale, dove c'è la traduzione. Detto questo, il Parlamento europeo non ha nessun significato se non ha un rapporto forte con il territorio. Oggi ho l'impressione che spesso si faccia nell'uno o nell'altro, si è assenti a Strasburgo e si ha molta frequentazione più su Roma che sul territorio in quanto tale. Ricordiamoci che noi siamo uno dei paesi, credo il paese che meno spende fondi europei. Secondo alcune statistiche addirittura il 70% dei fondi potenzialmente disponibili per l'Italia rimangono a Bruxelles, vengono ridistribuiti poi tra gli altri paesi. È un'altra vergogna ed è una cosa che devo dire deve finire. Questo accade anche perché c'è poco rapporto tra gli eletti europei e il territorio, perché molti di questi fondi devono essere informati, bisogna avere la capacità di spiegare agli amministratori locali, bisogna dare l'informazione che sono disponibili, che sono usciti dei bandi o altro, e su questo abbiamo delle proposte molto precise come candidato, perché io vorrei aprire un sito che metta online immediatamente disponibili tutte le opportunità di finanziamento, che siano per associazioni di disabili, università, piccoli o grandi comuni, cooperative. Sono cose che si possono fare, che anche altri deputati di altri paesi peraltro fanno, quindi non si tratta di idee rivoluzionarie, ma che ancora non sono arrivate in Italia. Così come credo che noi dovremmo fare, da un altro punto del nostro programma, dei corsi di formazione brevi, il modulo che abbiamo in testa è di 3 giorni, per permettere agli amministratori locali, ai quadri di partito dell'Italia dei Valori in questo caso, ma anche ai rappresentanti di categoria, di avere le prime nozioni per gestire poi questi progetti europei, perché manca proprio la professionalità. Ecco, queste sono due idee che abbiamo per cercare di avere questo rapporto forte con il territorio. Detto questo, bisogna poi essere estremamente assidui, estremamente presenti, perché se uno si lascia sfuggire qualche cosa sono a volte milioni se non miliardi di euro che non vengono dirottati nel nostro paese. La seconda cosa è occorre un'organizzazione diversa della forza politica, cioè occorre una buona integrazione con il gruppo di appartenenza e soprattutto una buona metodologia di rapporti di comunicazione con le strutture territoriali del partito e con i parlamentari nazionali. Io a volte sono sorpreso di vedere come parlamentari europei e parlamentari nazionali dello stesso partito in alcuni casi non si vedono mai durante l'anno, come se non ci fosse una comunanza di dossier, di questioni che vengono discusse tra Bruxelles e Camera e Senato. E questo con un modo che dobbiamo creare naturalmente, ma che vogliamo fare, di far rete, di avere proprio forme di organizzazione, di comunicazione, credo che sia fattibile. E la terza cosa, alla fin fine, è poi una questione di volontà e di sentimento, cioè io penso che dobbiamo affermare il fatto che è bello, per così dire, che è importante, che è prioritario essere con italiani dentro le istituzioni europee, per non essere escluso da tutto quello che vi accade, e al tempo stesso essere molto presenti sul territorio, perché l'Europa, ripeto, non ha senso se non è direttamente legata al territorio e viceversa. È una cosa fattibile, cioè io non credo che sia impossibile essere presenti sul territorio, essere presenti nelle istituzioni. E come come sempre nella vita, molto dipende dalla volontà, dalla voglia di fare e dall'organizzazione. Lei citava l'essere presenti sul territorio. Una campagna elettorale dunque che è fatta per incontrare la gente e per spiegare cos'è l'Europa alla gente comune. Ci racconta la sua giornata tipo? Che cosa ha fatto oggi lei, candidato per le elezioni europee? So che è particolarmente impegnato in quanto è stato molto difficile averla al telefono tutto il giorno. Ci dice un po' cosa ha fatto oggi? Qual è la giornata tipo del candidato? Ma oggi è facile, in realtà dovrei partire già da ieri. Allora, le dico molto rapidamente, i collegi come sappiamo sono molto grandi, l'Italia centrale è un collegio grande, anche gli altri sono grandi. Io nel giro delle ultime 48 ore sono stato in Lunigiana, che in realtà no, l'Italia è una punta della Toscana che sta a nord di La Spezia, dove abbiamo affrontato tutta una serie di problematiche legate allo sviluppo della cultura, in questo caso dello slow food e delle produzioni a chilometro zero, che stanno valorizzando moltissimo anche con vocazione turistica di qualità quel territorio. E, ho studiato il caso del recupero di un borgo medievale che è Filetto di Lunigiana, che è un posto meraviglioso, dove ho conosciuto delle persone che sono andate proprio lì a creare eventi d'arte, a restaurare palazzi, a creare un mercato dell'antiquariato di pregio, e legato anche proprio a questo recupero delle culture e tradizioni alimentari locali. Sono stato sempre nelle ultime 48 ore a Terracina, che invece è, come dire, il profondo sud del collegio, perché siamo alle porte della Campania, in fondo al Lazio, che è invece una situazione drammaticamente diversa, perché ci sono forti infiltrazioni camorristiche. È una città bellissima, Terracina, sulla quale Goethe ha scritto delle bellissime pagine, ma che sta soffrendo moltissimo di un forte degrado, sia istituzionale, c'è molta corruzione, c'è un rapporto della procura, del distretto della procura dell'antimafia molto duro su quello che sta accadendo a Terracina, c'è un problema di spazzatura che non è raccolta, c'è un problema di assenza di teatri, di istituzioni culturali e quindi di giovani che fanno il pendolarismo su Roma, che è a quasi 2 ore di distanza, è lontana. E c'è un problema di speculazione edilizia, perché è stato approvato sulla costa il progetto di costruzione di circa, se ricordo bene, 91 mini appartamenti a schiera di 50 metri quadrati l'uno, che insomma avrà un effetto devastante. E lì c'è una cultura di destra molto forte, purtroppo, con un PDL e con una destra che la fanno da padrona, e dove ho incontrato altre persone che fanno quello che in Lunigiana fanno in altro modo, cioè amano il loro territorio, si rivolgono a noi candidati europei dello stesso partito per cercare di avere una sponda in Europa per le battaglie che stanno compiendo, devo dire, con molto coraggio. Stamattina ho avuto invece un'attività, come dire, molto più classica di campagna elettorale, perché sono stato a Viterbo, nel mercato, a conoscere un po' i problemi delle persone. In realtà, quando si è nel mercato, l'ho già sperimentato in altri mercati che ho fatto, è difficile parlare con l'acquirente, perché le persone vanno lì a fare la spesa, hanno fretta, insomma non è che hanno tempo da perdere a parlare con un capolista, ma invece è molto interessante sempre parlare con i venditori, che hanno molte cose da raccontare per la burocrazia terribile che devono affrontare ogni giorno, per la crisi che diminuisce le loro vendite, per gli escamotaggi e i rimedi che cercano di trovare ciascuno nel suo settore per supplire ai bisogni e alla caduta naturalmente delle vendite, e la concorrenza che hanno da parte di venditori extracomunitari, che spesso non sono legali, non sono registrati, e che quindi la concorrenza è un problema che fa scaturire problematiche molto, molto complesse. Oggi ero questo pomeriggio a Pisa alla Federconsumatori per un dibattito insieme ai consumatori di Pisa, all'associazione di categoria dei consumatori di Pisa, su quella che sarà la prossima direttiva orizzontale che si sta preparando nella prossima legislatura per il diritto dei consumatori, che sarà uno dei pezzi grossi della legislazione del Parlamento europeo per i prossimi 5 anni. Ora mi trovo a San Giuliano Terme, che è vicino Pisa. Quindi queste peregrinazioni sono un po' terminate per la giornata, e dove sono con il sindaco di San Giuliano Terme, che sta cercando di sviluppare proprio, di recuperare la vocazione di centro termale di San Giuliano, che ha il nome Terme, ma che in realtà è ancora un piccolo centro termale, nonostante sia accanto all'aeroporto di Pisa, dove ci sono moltissimi voli della Ryanair a basso costo, dove quindi c'è un grandissimo flusso di turisti che però una realtà come questa, San Giuliano Terme, ancora non è riuscita a intercettare. E più tardi stasera andrò a una festa di queste, come dire, elettorali a Firenze, che non so che cosa accadrà, ecco, perché sono stato invitato, non ho organizzato io. Sì, domattina ho un incontro con la comunità ebraica a Firenze. Un programma molto tranquillo, mi sembra di capire. Beh, sono anche un po' gli ultimi giorni, per cui... Però guardi, io è la prima volta che faccio una campagna elettorale, per cui ecco, se avessi avuto un programma così un paio di mesi fa avrei detto no, io non mi candido, non ci penso neanche, mi sembra una cosa folle. In realtà passo passo, cercando di fare una cosa alla volta, più o meno seriamente, cercando quindi di prendere almeno un po' di tempo per bene, per studiare ciascuna situazione, è una cosa interessantissima. E è un meccanismo questo degli incontri che per noi candidati è indispensabile, perché abbiamo, soprattutto per un candidato come me, che non è noto, che non è famoso, perché appunto mi chiamo Rinaldi, che non è un nome che le persone hanno già in testa come un personaggio del piccolo grande schermo, un politico consumato, e quindi io ho il dovere di farmi conoscere e di andare incontro all'elettore nelle varie situazioni che si possono porre in questo senso. Io ho anche una responsabilità aggiuntiva come capolista, quindi di andare ovunque ci sia in effetti bisogno. Però è bellissimo, perché per quanto possa essere appunto molto ritmato da tante cose, una dietro l'altra, bisogna spostarsi di continuo, permette una immersione molto profonda nei tanti problemi e anche in tante potenzialità, in tante bellissime storie del nostro paese. C'è tanta gente che si dischiude, che ti racconta le sue ambizioni, i suoi progetti, le sue storie, naturalmente anche le sue frustrazioni, i suoi dolori. Tre aggettivi per spiegare le specificità e le diversità del Parlamento europeo rispetto a quello italiano, giusto tre aggettivi. Ma guardi, io direi che il primo aggettivo è che è un Parlamento molto più sintetico, i tempi di parola sono brevi e sono dati, non si può sforare. La calendarizzazione dei lavori è molto rigorosa, per cui più o meno noi possiamo sempre dire al Parlamento europeo, ai governi membri, alle istituzioni, altre istituzioni europee, quando un dossier viene messo in discussione, quando arriva a votazione. Quindi è una macchina, voglio dire, che funziona abbastanza bene, con una certa sintesi, insomma, nel senso che non si deve perdere tempo, troppo tempo per strada. Quindi ha dei meccanismi che sono molto più oliati e rigorosi anche. La seconda cosa è, ovviamente è un Parlamento internazionale, cioè un Parlamento dove si respira, non voglio dire area di cosmopolitismo, perché a volte è un'area da Torre di Babele, dove ci sono 27 paesi diversi, 27 tradizioni politiche diverse, 27 modi di intendere a volte anche proprio il mandato parlamentare distinte, e dove è necessario costantemente trovare un punto di equilibrio, che è tra destra e sinistra, tra laici e confessionali, tra paesi del nord e paesi del sud, tra quelli poveri e quelli piccoli, tra quelli grandi e quelli piccoli, tra quelli poveri e quelli ricchi, tra quelli grandi e quelli piccoli, tra i paesi a cultura cattolica e i paesi a cultura protestante, tra i paesi vecchi dell'Unione Europea e quelli nuovi arrivati. A seconda del dossier si creano maggioranze e necessità di punti di equilibrio che seguono varie variabili. E la terza cosa è che è un Parlamento che è visionario, ecco, nel senso che bene o male questa Europa che fa due passi in avanti e un passo indietro in questi ultimi tempi, quindi che procede con un po' di incertezza, però è un'Europa che si sta facendo adesso, che ha veramente bisogno di un grande disegno. Quindi direi sintetico, negoziale e visionario. Nel 2004 si toccò il picco del 54,4% degli elettori non votarono per le elezioni europee. Ora siamo nel 2009, il tasso di assenteismo sarà senz'altro molto, molto alto. Lei qual è la frase che direbbe ad un euroscettico per convincerlo ad andare a votare il 6 o il 7 giugno in Italia per le elezioni europee? Non lo so, perché in realtà è difficile trovare, come dire, la frase in effetto. Io direi i problemi ormai sono globali, la soluzione deve essere globale, i problemi sono europei, la soluzione europea. Potrei anche dire guardiamoci un attimo dietro le spalle e guardando gli sfatti che l'Europa ha compiuto nei secoli passati fino alla seconda guerra mondiale e le rovine da cui è risuscitata, ecco, guardiamo poi, dopo aver guardato alle spalle, guardiamo al futuro credendoci anche con un po' di soddisfazione, un po' di gioia per quello che abbiamo ottenuto. Oppure direi anche ci vuole pazienza, perché l'Europa è un processo lento, un processo a volte anche amministrativo, burocratico purtroppo, e noi non siamo noi, cioè le istituzioni non sono le migliori per riuscire a parlare con le persone, però appunto in questi casi ci vuole, come dire, un po' di tolleranza, perché sicuramente è molto, molto di più il buono che non il cattivo. Bene, a me non resta che ringraziarla. Dunque, ricordo per i nostri amici radioascoltatori, abbiamo intervistato Nicolò Rinaldi, candidato capolista della lista di Pietro, Italia dei Valori, della circoscrizione 3, Italia Centrale. Grazie mille per il suo contributo. Grazie, arrivederci. Arrivederci, buona serata. Buonasera, buonasera a tutti. E ben felice di sentirti. Grazie. Tutto bene, grazie. Spero. Sì, tutto bene. Bene, e Enrico, come dicevamo prima, è corrispondente di Radio SBS Australia, è un vecchio amico di Radio Alma e di Giro di Boa. Enrico è in studio questa sera perché, come ben i nostri amici radioascoltatori ricorderanno, Enrico è... un referendario. Stato. Come? Un referendario. Esatto, è un referendario convinto, in quanto in passato è stato assistente dell'onorevole Mario Segni e tuttora molto, molto vicino all'onorevole Segni, per cui magari ci vuole spiegare questa sera quali sono i quesiti referendari che gli italiani si troveranno di fronte il 21 giugno, perché finalmente è stato fissato dopo diverse peripezie la data per questo referendum. Magari prima di parlare del referendum ci vuoi parlare un po' della storia, di come siamo arrivati a questo referendum? Ma la storia dovremmo partire dal 1992, quindi non credo che ci sia molto tempo. Magari facciamo 10 minuti, non di più. No, ecco, è un... insomma, la battaglia referendaria parte con la riforma elettorale per cercare di dare governabilità a un paese che negli ultimi 50 anni non ha mai avuta, e quindi per andare verso un sistema maggioritario e non verso un sistema proporzionale. Si è votato tante volte, gli italiani si sono espressi tante volte a favore del sistema maggioritario, puntualmente le Camere hanno ricambiato in una maniera direi abbastanza scandalosa il risultato elettorale, e l'ultima volta che è stato ricambiato è stato grazie alla legge Calderoli, che è stata definita poi il Porcellum dallo stesso Calderoli. Il referendum sarebbe dovuto esserci l'anno scorso, poi è slittato perché il governo ovviamente è caduto e quindi sappiamo che per la Costituzione quando il governo cade il referendum slitta di un anno. Ha rischiato anche di non esserci quest'anno, perché molte forze politiche hanno cercato di rinviarlo nuovamente con scuse, insomma, un po' di tutti i tipi. E insomma, alla fine si è deciso di non farlo, purtroppo nel giorno delle europee, quindi dell'Election Day, ma di abbinarlo alla seconda tornata delle amministrative, alla seconda tornata del ballottaggio, il 21 giugno. Quali sono le questioni che pone il referendum? Innanzitutto bisogna precisare che il referendum in Italia è soltanto abrogativo. Quindi ecco, un fior fiore di costituzionalisti ha studiato i quesiti, ha cercato di modificare al meglio questa legge porcata, come definita dal ministro Calderoli. L'unica cosa che si è riusciti a fare, che comunque insomma è già tanto, sollevare fondamentalmente due questioni. Uno, vietare, se il referendum dovesse passare, la candidatura multipla. Quindi esattamente quello che diceva il nostro precedente, anche se si parlava di elezioni europee, il nostro precedente amico Niccolò Rinaldi, cioè l'essere candidato in tutti i collegi come è candidato l'onorevole Di Pietro alle europee. Questo secondo me e secondo un po' noi referendari è uno scempio. L'onorevole Di Pietro, ma come anche altri. Come anche altri, sì. Però ecco, cancella, quindi non dà, però parliamo di elezioni nazionali e non parliamo di elezioni europee. Non dà la possibilità a qualsiasi deputato di candidarsi in più collegi. La seconda questione è che dà un premio di maggioranza non alla lista che vince, come oggi, ma al partito che vince. Quindi sostanzialmente il primo partito, il partito che prende più voti, governa. Ha il 55% dei seggi alla Camera e al Senato. E quindi è in grado di governare senza bisogno di alleanze, di partiti piccoli e senza dover sottostare ai ricatti dei partiti piccoli. Ovviamente questo non risolve tutti i problemi di questa legge elettorale, che ripeto ne ha prodotti tanti, però immagino che possa dare senz'altro più stabilità al paese, soprattutto in futuro, insomma. Professor Mario Senni, lei è uno dei promotori del referendum elettorale che si terrà in Italia il 21 giugno. Ecco, professore, perché è importante andare a votare per questo referendum? Perché è l'unica possibilità che abbiamo di cancellare, di distruggere, diciamo pure, una delle peggiori cose, uno dei peggiori regali che ci abbia fatto la casta partitocratica in questi ultimi anni, e cioè la legge Porcellum, la legge porcata di Calderoni. Voglio ricordare a tutti che noi avevamo un sistema che era uguale quasi a quello inglese: ogni cittadino votava il suo deputato, il suo senatore, era espresso direttamente dagli elettori il parlamentare, ogni partito poteva presentare un solo candidato. Con la legge scellerata di Calderoni, e le ripeto scellerata, si è introdotto il meccanismo perverso della lista bloccata, cioè i parlamentari li scelgono i partiti, non più i cittadini. Ora il referendum è un referendum contro la lista bloccata, è un referendum contro la legge Calderoni, ne butta giù alcune parti, come per esempio quella sulle pluricandidature, un altro scandalo, ci si può candidare in tutta Italia, in 20 collegi si viene eletti dappertutto e poi se ne sceglie uno e i cittadini degli altri 19 rimangono come dei salami, avendo votato una persona che non c'è più, no? Quindi è una legge perversa e il Parlamento non ha la forza né la voglia di cambiarla, perché poi questi meccanismi partitocratici fanno comodo a tutti. L'unico sistema per sbarazzarci di questo indegno regalo è quella di votare sì al referendum. Ecco, professore, che risponde a quelli che invece dicono che questo sarebbe un regalo a Berlusconi, insomma? Ma è una questione che io non capisco. Questa è una legge fatta dal governo Berlusconi e noi stiamo proponendo di cancellarla, di distruggerla. L'ha fatta Berlusconi perché a lui va benissimo in realtà questo meccanismo. Come tutti gli altri, si sceglie i suoi deputati e se li sceglie i senatori, se li sceglie tra i più ossequiosi. Berlusconi, come gli altri capi partito, questa è una legge contro la partitocrazia e i capi partito. Poi si dice una cosa: attenzione, Berlusconi oggi che col suo partito è il 40% può presentarsi da solo e pigliare la maggioranza assoluta in Parlamento. Vero, verissimo, ma questo meccanismo c'è già nella legge attuale. Su questo il referendum cambia niente, il referendum cambia tante altre cose, ma non la possibilità di avere il premio maggioranza oltre una certa soglia che c'è in questa legge e che non viene toccata. Questo è l'effetto del Porcellum, dovevamo pensarci a prima se non lo volevano, non possono prendersela con noi che anzi questa legge la combattiamo. E così, anche perché il referendum, ricordiamo che è solo abrogativo. Molte schede qui in Belgio non sono ancora arrivate. Che cosa possono fare? Che cosa consiglia di fare, insomma, gli italiani residenti all'estero? Ma intanto prego tutti quelli che hanno un problema di questo genere di farcelo sapere. C'è un sito www.referendumelettorale.org, ci possono scrivere e mettersi in contatto con noi, noi faremo immediatamente una verifica al Ministero degli Esteri da dove partono le lettere di invito. Ricordo a tutti che bisogna spedire le cartoline, le schede votate entro il 18, poi in Italia si vota il 21, ma quelli che votano attraverso l'aereo all'estero devono spedirle da prima. So che da molte altre parti, molte altre città sono arrivate e molti hanno già votato, e se non non capita lì, prego agli elettori, agli italiani che ci ascoltano, fatecelo sapere subito, andate anche voi al consolato a chiedere informazioni, ma ditecelo che interverremo anche noi. Perfetto professore, grazie. Arrivederci. Grazie. Allora abbiamo pronta l'intervista a Giuseppe Gargani, che è candidato del Popolo delle Libertà nella lista Sud per le elezioni europee. Candidato nella lista Sud per il PDL, ci illustra le linee principali del suo programma qualora dovesse essere rieletto? Ma c'è un programma che riguarda il Mezzogiorno, il Sud d'Italia, che è prevalente rispetto a tutti gli altri programmi, che è in continuità con l'opera che abbiamo portato avanti nelle legislature precedenti. Io sono nel Parlamento europeo dal 1999, sono stato rieletto nel 2004 e mi sono impegnato per questa politica europea che io considero sia la più strategica e la più importante. L'Europa ha un interesse per le zone del sud, per la politica euro-mediterranea che porta avanti, è una politica molto accorta, molto strategica, molto puntuale, è una politica che riguarda la civiltà del Mezzogiorno che si affaccia al Mediterraneo, la protezione che l'Europa deve avere attraverso il Mediterraneo, il problema dei rapporti con il Medio Oriente e l'Estremo Oriente, la difesa che l'Europa deve avere rispetto a questa area geografica che appunto resta strategica rispetto a tutto il resto, alla prevalenza rispetto al resto. In cosa si differenzia la sua idea di Europa da quella di esponenti di altri gruppi al Parlamento europeo? In particolare noi domani in trasmissione avremo un candidato dell'Italia dei Valori, ma anche rispetto per esempio al Partito Socialista Europeo, in cosa è diversa la sua idea d'Europa? L'idea di Europa corrisponde alla idea originaria di grandi statisti che 60 anni fa hanno immaginato questa cosa che allora era rivoluzionaria e che oggi è una realtà. De Gasperi, Adenauer, Schumann e altri statisti hanno immaginato l'Europa una federazione di paesi che evidentemente deve competere col mondo, perché oggi non si compete come singolo paese con il resto del mondo, ma c'è bisogno di una coalizione di paesi, c'è bisogno di forze determinanti come l'Europa unita nei confronti dell'India, del Giappone, dell'America, della Cina. Ora, l'idea che noi abbiamo dell'Europa è un'idea legata al popolarismo. Se lei mi cita l'Italia dei Valori, io dico che questo non è un partito neppure in Italia, ha un riferimento personalistico a un signor Di Pietro che non può essere come persona portatore di valori, che sono i partiti che sono portatori di valori, e quindi non può avere nessuna idea di Europa, non può assolutamente configurare una cultura o un riferimento europeo. Lei diceva che l'Italia dei Valori è un partito personalistico che fa riferimento alla persona di Di Pietro. La stessa obiezione la potrebbero fare i suoi avversari riguardo Berlusconi, Forza Italia e il Partito delle Libertà. Come risponderebbe a questa obiezione? Assolutamente no, perché noi ci siamo collegati al popolarismo europeo, al Partito Popolare Europeo. E quindi, siccome il Partito Popolare Europeo è un grande partito che ha maggioranza nel Parlamento e che ha quindi una configurazione complessa e c'è un riferimento forte, allora come può esserci fatto? Può essere fatto questo paragone? Senta, tornando a parlare di Berlusconi, i giornali stranieri sottolineano il fatto che Berlusconi sia l'unico premier candidato capolista in tutte le circoscrizioni, un'eccezione un po' a livello europeo. Come mai questa scelta, che è abbastanza controversa, almeno la stampa straniera la vede abbastanza controversa, soprattutto tenendo conto del fatto che Berlusconi non sarebbe eleggibile comunque, perché... Sono i corrispondenti, sono in questi giornali, corrispondenti italiani che ripetono le cose che scrivono sui giornali italiani. Un capo di un partito deve essere rappresentativo e sempre tradizionalmente, anche negli anni passati, anche quando c'erano partiti più solidi, più complessi, il capo di un partito si presentava perché è un riferimento, è una significazione forte, rappresenta in sé i valori di tutto il partito e quindi li vuole esprimere anche a livello europeo, a livello della campagna europea. Però in Europa nessuno ha seguito questo esempio, come mai secondo lei? probabilmente non ci sono persone così rappresentative, oppure c'è un altro costume, non mi scandalizzo né di questo né di quello. Tornando alla campagna elettorale in Italia, è stata basata un po' più su polemiche interne, come spesso capita, sembrava un po' una campagna per elezioni politiche piuttosto che per elezioni europee. Si è spiegato un po' poco quali sono i vantaggi che l'Europa può dare ai cittadini. Secondo lei come mai e perché i cittadini italiani dovrebbero credere nell'Europa? In concreto, cosa può dare loro l'Europa? Noi siamo vittime di questa situazione, perché mi pare che tutti i candidati, posso dire io per primo, soprattutto io, giro tutta l'Italia, giro l'Italia meridionale in particolare, cercando di spiegare le ragioni del voto e spiegare i motivi per i quali l'Europa oggi è il punto di riferimento più forte. Siamo succubi di questa polemica che nasce onestamente dai giornali, dalla grande stampa, dai giornali di sinistra, dalla polemica che l'opposizione fa, appunto rendendo sterile il discorso sui grandi temi che invece dovrebbero essere spiegati, dovrebbero essere prospettati all'opinione pubblica per avere un voto cosciente, un voto di grande consenso. Devo dire che nonostante il richiamo del Capo dello Stato a che si discuta di problemi, mi pare che non ci sia questa grande polemica o dialettica politica che rende virtuosa una campagna elettorale. Onorevole, mi dà tre aggettivi che definiscono il Parlamento europeo rispetto ai parlamenti nazionali? No, mi sento di dire che il Parlamento europeo è un Parlamento partecipato, più partecipato di quando non si immagini, più ragionato, perché non si fanno, fanno meno polemiche che nei parlamenti nazionali e si discute delle questioni, e poi credo che un Parlamento che dà risultati e ha un metodo di lavoro abbastanza razionale. C'è stata questa polemica sull'assenteismo degli eurodeputati italiani che da quanto risulta sul sito del Parlamento europeo sarebbe fra i più alti, insomma. È vero che c'è la legittima necessità da parte dei parlamentari di dividersi un po' fra le attività a Bruxelles, a Lussemburgo, nelle plenarie in aula e il loro collegio elettorale, ma si può combattere questo assenteismo, se sì come? Ma insomma, io credo che sia un po' esagerato, non c'è dubbio che un po' di fannulloni ci sono sempre, però il calcolo che si fa sull'assenteismo è sempre sul voto che poi in definitiva si dà in aula, mentre si ignora tutto il lavoro che si fa nelle commissioni, che si fa in varie riunioni che sono all'ordine del giorno tutta la settimana, per cui io non esagererei su questo concetto, mi pare che sia un po' pretestuoso e anche un po' esagerato. Personalmente non posso non dire che, però, a evitare equivoci, che la mia presenza è valutata intorno all'81%, per cui credo di essere stato un deputato diligente. Secondo lei quali sono le principali sfide che l'Unione Europea si troverà ad affrontare nella prossima legislatura dell'Europarlamento e con la prossima Commissione? La prima sfida è l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, cioè della Costituzione Europea, che è attesa da tanto tempo e su quella dobbiamo impegnarci fortemente. La seconda è pur sempre la sfida, il progetto, il piano euro-mediterraneo per quanto riguarda il Mezzogiorno, come ho spiegato, e poi c'è la possibilità che il Parlamento acquisti sempre più una funzione legislativa anche in capo al singolo deputato, in modo che i rapporti tra le istituzioni sia più solerte, più valido e più virtuoso. Il futuro dell'Europa è nei giovani. Cosa può dare l'Unione Europea alle giovani generazioni? Io sono sempre convinto, lo dico spesso, che il nuovo Trattato di Lisbona determinerà una consapevolezza maggiore, una coscienza maggiore di avere una cittadinanza europea, di appartenere all'Europa di più. Oggi l'appartenenza deve essere alla comunità europea e i più giovani inevitabilmente hanno una sensibilità più spiccata, più forte per sentirsi cittadini europei. In conclusione, se la sente di fare un appello agli euroscettici che ancora non sanno se andare a votare il 6 e 7 giugno? L'appello è certamente il più sentito che io possa fare, siccome l'Europa è una realtà, è un orizzonte concreto e tutto quello che avviene nei vari paesi avviene per direttive, per impulso, per dichiarazioni, per i trattati europei, per tutto quello che l'Europa oggi in qualche modo definisce come regola di comportamento comune nell'ambito dei 27 paesi. Essere euroscettici significa rinunziare a una parte dell'attività umana, sociale, politica, significa assentarsi da questo processo, che non è solo un processo politico, un processo istituzionale, ma soprattutto è un processo civile, di grande civiltà da costruire e sociale. Abbiamo sentito l'intervista all'onorevole Giuseppe Gargani, candidato del Partito delle Libertà per la circoscrizione centro per le elezioni europee, che in Italia saranno il 6 e il 7 giugno. C'era Enrico qui in studio che voleva replicare brevemente, prima di concludere, di lasciare ad Alessandra i saluti finali, voleva replicare brevemente a ciò che è stato detto sia dall'onorevole Rinaldi, dal candidato Rinaldi dell'Italia dei Valori, e non so se poi voleva dire qualcosa anche riguardo quello che ha detto Gargani del PDL. Enrico. Sì, io non sono d'accordo su due questioni. Una sollevata dall'onorevole Gargani, che dice che il partito di Pietro è un partito legato alla persona, cosa che è verissima, e invece il partito di Berlusconi non è legato alla persona perché fa parte del PP. Il partito di Pietro, io gli potrei rispondere, fa parte dei liberali, insomma, dell'LDR, quindi non vedo perché, soltanto perché faccia parte del PP, non debba essere legato alla persona, ma insomma. E invece al dottor Rinaldi replico in un'altra maniera. Lui ha detto una frase che mi ha colpito molto: a un problema globale bisogna rispondere con una risposta globale. No, assolutamente no, a un problema globale bisogna rispondere con una risposta locale, ed è per questo che secondo me il parlamentare dovrebbe essere veramente legato al territorio. Allora, io ho immensamente stima verso il dottor Rinaldi, che conosco anche personalmente e che è un alto funzionario dell'Unione Europea. Ecco, mi sarebbe piaciuto chiedergli perché un alto funzionario decide di buttarsi in politica, conoscendo poi probabilmente molto bene i problemi globali, ma molto male i problemi locali. Perché se abbiamo voluto nel 1979 un Parlamento fatto di politici e quindi di eletti e quindi di persone legate al territorio e non di funzionari, come può essere magari la Commissione, beh, questo c'è un motivo. Insomma, se parliamo poi di deficit democratico dell'Europa, secondo me dovremmo invece cercare di puntare a dei deputati che magari con delle conoscenze europee magari anche minori, e magari con delle conoscenze linguistiche forse anche minori rispetto a quelle di un alto funzionario, che però conoscono molto bene il territorio, perché dobbiamo scegliere se volere degli eurodeputati o se volere degli ambasciatori. Beh, io sono a favore della politica, sono a favore degli eurodeputati, però questa è la mia personale opinione. Con questa puntata Giro di Boa conclude il ciclo di puntate dedicate alla campagna elettorale per le elezioni al Parlamento Europeo. I nostri amici radioascoltatori ricorderanno che la settimana scorsa abbiamo avuto ospite il console italiano di Bruxelles, Dino Sorrentino, che ha spiegato le modalità di voto per gli italiani residenti all'estero. Giro di Boa ha dato ampio spazio ai candidati, in quanto abbiamo avuto un candidato della destra, l'onorevole Musumeci, un candidato del PD, l'onorevole Pittella, la settimana scorsa, mentre, come giustamente ricordava ora Maurizio, questa settimana abbiamo avuto due candidati, il dottor Nicolò Rinaldi dell'Italia dei Valori e l'onorevole Giuseppe Gargani del PDL. Dunque, questa sera abbiamo dato anche spazio al referendum elettorale che si svolgerà il 21 giugno in Italia, con un'intervista al prof. Mario Segni. Adesso non ci resta che ringraziare ancora una volta Enrico per... Sono io che vi ringrazio. ...in studio, per Maurizio per le sue preziose interviste e per Roberto per la ricerca.